Il Signore parlò a Mosè e ad Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, e disse: «Fate il censimento di tutta la comunità dei figli di Israele, da 20 anni in su, secondo la casa dei loro padri. Chiunque può essere schierato nell'esercito in Israele». Mosè e il sacerdote Eleazaro parlarono a loro nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico, dicendo: «Si faccia il censimento dall'età di 20 anni in su, come il Signore aveva ordinato a Mosè e agli israeliti quando uscirono dal paese d'Egitto. Ruben, primogenito d'Israele. Figli di Ruben: da Enoch, la famiglia enochita; da Pallu, la famiglia di Pallu; da Chezron, la famiglia di Chezron; da Carmi, la famiglia di Carmi. Queste sono le famiglie di Ruben. I loro recensiti furono 43.730. Figli di Pallu: Eliab. Figli di Eliab: Nemuel, Datan e Abiram. Furono Datan e Abiram, uomini considerati nella comunità, a insorgere contro Mosè e Aronne nella lega di Core, quando insorsero contro il Signore. La terra aprì la sua bocca e li inghiottì, con Core, nella morte della fazione, quando il fuoco divorò 250 uomini, e furono un segno. I figli di Core non morirono. Figli di Simeone, secondo le loro famiglie: di Nemuel, la famiglia dei Nemueliti; di Yamin, la famiglia degli Yaminiti; di Yakin, la famiglia degli Yakiniti; di Zocar, la famiglia degli Zocariti; di Saul, la famiglia dei Sauliti. Queste sono le famiglie dei Simeoniti. Furono registrati 22.200. Figli di Gad, secondo le loro famiglie: per Sefon, la famiglia dei Sefoniti; per Aggi, la famiglia Aggita; per Suni, la famiglia Sunita; per Ozni, la famiglia Osnita; per Eri, la famiglia Erita; per Arod, la famiglia Arodita; per Areli, la famiglia Arelita. Queste sono le famiglie dei figli di Gad, secondo i loro recensiti, che furono 40.500. Figli di Giuda: Er e Onan. Er e Onan morirono nella terra di Canaan. I figli di Giuda, secondo le loro famiglie: per Sela, la famiglia Selanita; per Perez, la famiglia Perezita; per Zerach, la famiglia Zerachita. I figli di Perez furono: per Chezron, la famiglia Chezronita; per Amul, la famiglia Amulita. Queste sono le famiglie di Giuda, secondo i loro recensiti, che furono 76.500. Figli di Issacar, secondo le loro famiglie: per Tola, la famiglia dei Tolaiti; per Puva, la famiglia dei Puviti; per Yasub, la famiglia dei Yasubiti; per Simron, la famiglia dei Simroniti. Queste sono le famiglie di Issacar, secondo i loro recensiti, che furono 64.300. Figli di Zabulon, secondo le loro famiglie: per Sered, la famiglia Seredita; per Elon, la famiglia Elonita; per Yacleel, la famiglia Yacleelita. Queste sono le famiglie di Zabulon, secondo i loro recensiti, che furono 66.500. Figli di Giuseppe, secondo le loro famiglie: Manasse ed Efraim. Figli di Manasse: per Machir, la famiglia Machirita. Machir generò Galaad, e per Galaad la famiglia Galaadita. Questi sono i figli di Galaad: per Jezer, la famiglia Jezerita; per Elec, la famiglia Elechita; per Asriel, la famiglia Asrielita; per Sichem, la famiglia Sichemita; per Semida, la famiglia Semidaita; per Efer, la famiglia Efrita. Zelofkad, figlio di Efer, non ebbe figli, ma solo figlie. Il nome delle figlie di Zelofkad: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Queste sono le famiglie di Manasse e i loro recensiti, in numero di 52.700. Questi sono i figli di Efraim, secondo le loro famiglie: per Sutelah, la famiglia Sutalchita; per Becher la famiglia Becherita, per Takan la famiglia Takanita. Questi sono i figli di Sutelach. Per Eran la famiglia degli Eraniti. Queste sono le famiglie dei figli di Efraim, secondo i loro recensiti, in numero 32.500. Questi sono i figli di Giuseppe, secondo le loro famiglie. Figli di Beniamino, secondo le loro famiglie. Per Bela, la famiglia Belaita. Per Asbel, la famiglia Asbelita. Per Airam, la famiglia Airamita. Per Sufam, la famiglia Sufamita. Per Ufam, la famiglia Ufamita. I figli di Bela furono Ard e Naaman. Per Ard, la famiglia Ardita. Per Naaman, la famiglia Naamanita. Questi sono i figli di Beniamino, secondo le loro famiglie e i loro recensiti, in numero di 45.600. Questi sono i figli di Dan, secondo le loro famiglie. Per Suam, la famiglia Suamita. Queste sono le famiglie di Dan, secondo le loro famiglie. Totale famiglie Suamite, secondo i loro recensiti, 64.400. Figli di Aser, secondo le loro famiglie. Per Imna, la famiglia Imnita. Per Isvi, la famiglia Isvita. Per Beria, la famiglia Beriaita. I figli di Beria, per Eber, la famiglia Eberita. Per Malchiel, la famiglia Malchielita. La figlia di Aser si chiamava Sera. Queste sono le famiglie dei figli di Aser, secondo i loro recensiti, in numero di 53.400. Figli di Neftali, secondo le loro famiglie. Per Jaxeel, la famiglia Jaxeelita. Per Guni, la famiglia Gunita. Per Jeser, la famiglia Jeserita. Per Sillem, la famiglia Sillemita. Queste sono le famiglie di Neftali, secondo le loro famiglie, e i loro recensiti, in numero di 45.400. Questi sono i recensiti dei figli di Israele, 601.730. Il Signore disse a Mosè: a questi ripartirai la terra in eredità, secondo il numero delle persone. A chi è grande aumenterai la sua eredità, e a chi è piccolo diminuirai la sua eredità. Secondo i loro recensiti darai a ognuno la sua eredità. Solo per sorte si ripartirà la terra. Erediteranno secondo i nomi delle loro tribù paterne. Secondo la sorte ripartirai la propria eredità tra il grande e il piccolo. Questi sono i recensiti di Levi secondo le loro famiglie. Per Gerson, la famiglia Gersonita. Per Keat, la famiglia Keatita. Per Merari, la famiglia Merarita. Queste sono le famiglie di Levi: la famiglia Libnita, la famiglia Ebronita, la famiglia Maclita, la famiglia Musita, la famiglia Coraita. Keat poi generò Amram. Il nome della moglie di Amram era Jochebed, figlia di Levi, ed era nata a Levi in Egitto. Partorì ad Amram Aronne, Mosè e Maria, loro sorella. Ad Aronne nacquero Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar. Nadab e Abiu morirono nel presentare un fuoco profano davanti al Signore. I recensiti furono 23.000, tutti maschi da un mese in su. Essi non furono recensiti in mezzo ai figli di Israele, perché non fu dato a loro eredità in mezzo ai figli di Israele. Questi sono i recensiti da Mosè e dal sacerdote Eleazaro che recensirono i figli di Israele nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Tra questi non c'era nessuno dei figli di Israele che Mosè e il sacerdote Aronne recensirono nel deserto del Sinai, perché il Signore aveva detto di loro: essi moriranno nel deserto e non resterà nessuno se non Caleb, figlio di Jefunne, e Giosuè, figlio di Nun.